Ho letto un'intervista fatta ad un famoso attore rimasto paraplegico a causa di un incidente. La domanda posta dal giornalista era: per quasi 50 anni ha fatto a meno della religione. Cosa l'ha spinta a entrare di recente nella Chiesa Unitaria? Una religione con alcuni elementi cristiani. La risposta dell'attore era la seguente: la Chiesa Unitaria mi offre una bussola morale. Cito spesso Abe Lincoln che diceva: quando mi comporto bene mi sento bene, quando mi comporto male mi sento male, ed è questa la mia religione meno. Penso che tutti noi abbiamo una vocina interiore capace di guidarci. Se escludiamo tutto il rumore e il frastuono della nostra vita e ascoltiamo quella voce, ci dirà quale sia la cosa giusta da fare. Gli unitari credono che Dio sia buono e credono che Dio creda, che l'uomo sia buono. Il Dio degli unitari non è un Dio di vendetta. Questo è una cosa che apprezzo. L'opinione dell'attore in merito a Dio non è nuova, perché la maggioranza delle persone crede e desidera credere che sia così, che Dio sia buono, che alla fine perdona tutto, anche coloro che lo hanno crocifisso e lo crocifiggono di proposito ogni giorno. Ho la convinzione che il dramma più grande per una persona sia formarsi un'opinione sbagliata del suo creatore. Avere un'errata opinione in merito alle cose della vita può essere grave o fatale, ma avere convinzioni errate in merito a Dio porta a giocarci per sempre il nostro futuro nell'aldilà. Non è possibile quindi sbagliare. Eppure, l'uomo in genere vive con una opinione molto vaga, oltre che sbagliata, riguardo a Dio. Spesso rivolgo delle domande a chi professa una religione diversa dal cristianesimo. Per esempio musulmani o testimoni della torre di guardia. Ai primi chiedo chi è Allah e agli altri chi è Geova, ma le loro risposte rivelano che per loro la divinità è un concetto filosofico, un'idea impersonale, un nome. È vero che tutte le religioni attribuiscono alla loro divinità delle opere, ma nessuna la presenta come una persona, e tra questi sono i musulmani. Nessuno afferma che si sia rivelata prendendo sembianze umane, e tra questi sono i testimoni di Geova. Così, poiché questo concetto di un Dio vago e imperscrutabile impera nelle religioni, anche molti di coloro che si professano cristiani come cattolici e protestanti hanno le loro opinioni in merito a Dio. Ma nessuno, e proprio nessuno, ha il diritto di farsi un'idea personale di Dio perché per quanto si sforzi, si farà l'idea di una divinità a sua immagine e somiglianza, anziché rendersi conto che lui è essere stato fatto a somiglianza di Dio. A tutti piace pensare, come l'attore che abbiamo citato e come pensano gli unitari, che Dio sia buono, e a maggior ragione a tutti piace credere che Dio ritenga che l'uomo sia buono. Soprattutto, per tutti è gradevole ritenere che Dio non sia un Dio di vendetta. Sarebbe veramente ridicolo pensarla diversamente. Eppure, come abbiamo detto, nessuno ha il diritto di farsi un'idea soggettiva di chi è Dio, anche perché non è affatto conveniente. Come gli uomini hanno fatto dei progressi scientifici solo quando hanno abbandonato la piacevole opinione che il Sole girasse intorno alla Terra. Così si potrà conoscere Dio solo quando si abbandonano i propri pregiudizi su Dio per accettare la rivelazione che il Creatore ha dato di se stesso. Se non si acquista questo atteggiamento, non vi è aurora per l'anima che cerca il vero Dio. Ecco perché non solo è utile, ma indispensabile avvicinarci alla parola di Dio per ricevere con umiltà la verità rivelata alla nostra mente, verità che deve modellare i nostri pensieri. Tra le tante rivelazioni fatte dall'Eterno non è possibile ignorare quella fatta tramite il profeta Naum. L'Eterno è un Dio geloso e vendicatore. L'Eterno è vendicatore. È pieno di furore. L'Eterno si vendica dei suoi avversari e conserva l'ira per i suoi nemici. L'Eterno è lento all'ira e grande in potenza, ma non lascia affatto impunito il malvagio. Naum 1:1-3. Una simile autorivelazione rilasciata dall'Eterno contrasta pienamente con la nostra piacevole chimera di un Dio buono che perdona comunque e che non si vendica. Certo, la divinità che si è rivelata prima e dopo la venuta di Cristo sulla terra è buona, compassionevole, misericordiosa, ma prendere solo questo aspetto del Dio Trino equivale a prendere solo le medicine buone e rifiutare quelle cattive, al nostro palato, o accettare dal medico solo le diagnosi positive e rimanere sordi alla diagnosi di una malattia. Non ha senso. Così, il Dio Trino delle Scritture si presenta anche come un Dio vendicativo, che non ritiene il colpevole per innocente, che non perdona colui che bestemmia contro la persona dello Spirito Santo, cioè chi non accetta il rimedio per il peccato che lui stesso ha stabilito. Chi crede che Cristo sia il suo Salvatore ha i peccati perdonati, chi non crede all'opera di Cristo l'ira di Dio resta sopra di lui. Questa decisione di Dio non può essere pattuita, non può essere conciliante. E perciò la sua vendetta ricade su chi è colpevole di ritenere Dio bugiardo. Spesso la vendetta di Dio la si vede dopo la morte, e questo non è del tutto sbagliato, ma sarebbe un fatale errore pensare che il Dio di amore non faccia ora vendetta ora sugli uomini per il loro nefasto comportamento. Il popolo di Israele ne sa qualcosa. L'Eterno a più riprese ha mandato dei profeti per avvertirlo di non camminare secondo la caparbietà del suo cuore, di mutare pensieri, parole ed opere. Ma non vi è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. E così l'Eterno ha parlato di vendetta, cioè ha minacciato che avrebbe punito la nazione, nazione verso la quale aveva avuto la più tenera compassione. E soprattutto il profeta Geremia che parla in questi termini. Il leone della foresta li uccide, il lupo del deserto li distrugge, il leopardo sta in agguato vicino alle loro città, chiunque esce da esse è sbranato perché le loro trasgressioni sono numerose, le loro ribellioni sono aumentate. Come potrai perdonarti per questo? I tuoi figli mi hanno abbandonato e giurano per quelli che non sono dei. Io li ho saziati, ma essi hanno commesso adulterio e si affollano nelle case di prostituzione. Sono come stalloni ben pasciuti e ardenti al mattino. Ciascuno nitrisce dietro la moglie del proprio vicino. Non li punirò io per queste cose, dice l'Eterno, e non mi vendicherò io di una simile nazione. Geremia 5:6-9. L'Eterno si lamenta che il suo popolo lo ha abbandonato. Ma di fatto apparentemente non era così perché il popolo di Israele continuava a rendere il culto a Yahweh, cioè al suo Dio, ma adorava anche altre divinità. Questo rimprovero è valevole anche oggi, nonostante siano passati migliaia di anni. Molti di coloro che si professano cristiani rendono il loro culto non solo a Gesù, ma anche alle persone come Maria e i santi. Pregano Gesù, ma le loro preghiere sono rivolte anche alle persone. Questo è idolatria, è rivolgersi a delle persone, uomini e donne, per ottenere delle grazie, grazie che sono esclusive di Dio. Inoltre, gli israeliti andavano con le prostitute e violavano i matrimoni altrui. Non è forse questo il comportamento normale della nostra società? L'adulterio e la fornicazione non sono forse diventati legali anche se non sono legittimi per Dio? Cosa dire? Perdonerà Dio una simile nazione? Da un lato sarebbe opportuno perché la malvagità è grande, ma l'Eterno tramite il profeta Naum ha fatto sapere che si vendicherà di una simile nazione. Possiamo noi biasimare Dio? Possiamo noi chiudere gli occhi e continuare a dire che Dio è buono e non si vendica? Il profeta Geremia ha parlato una seconda volta in merito alla vendetta dell'Eterno. Poiché fra il mio popolo si trovano uomini malvagi che spiano come uccellatori in agguato, essi tendono lacci e catturano uomini. Come una gabbia è piena di uccelli, così le loro case sono piene di inganno. Perciò diventano grandi e arricchiscono. Diventano grassi e prosperosi, sì, oltrepassano i limiti stessi del male. Non difendono la causa dell'orfano, eppure prosperano. Non difendono il diritto dei poveri. Non li dovrei punire per queste cose, dice l'Eterno. E non mi vendicherò io di una simile nazione? Nel paese si è commessa una cosa spaventevole e orribile. I profeti profetizzano falsamente, i sacerdoti governano in forza della propria autorità, e il mio popolo ha piacere che sia così. Ma cosa farete quando verrà la fine? Geremia 5:26-31. L'Eterno avanza altre ragioni per vendicarsi del popolo di Israele, ragioni, queste, valide più che mai per la nostra nazione. Gli uomini ingannano il prossimo, cercano solo il loro interesse, costi quello che costi. Si arricchiscono oltre misura. Non si interessano dei poveri e dei bisognosi. Ma questo non è il normale comportamento della stragrande maggioranza delle persone. Cosa ci insegna tutto questo? Se prendiamo sul serio la parola di Dio, questo rimprovero da parte dell'Eterno ci insegna che sulla nostra nazione, e forse non solo sulla nostra, pende un giudizio di Dio. Questa riprovazione ci insegna che Dio si vendicherà del malvagio comportamento degli uomini. Senza voler fare dell'inutile quanto inopportuno terrorismo, il messaggio di amore di Dio contiene anche il messaggio di un Dio vendicativo. Noi non possiamo ignorarlo. Anche se volessimo ignorarlo, non ne abbiamo nessun beneficio, perché credere qualcosa che non corrisponde alla verità, trovare un incoraggiamento in un'idea di Dio che non corrisponde al vero quando si avrà bisogno davvero, non riusciremo a trovare nessun senso in quello che succede. Chi ha più opportunità di scampare ad un pericolo? Colui che non lo conosce o colui che lo conosce? Così, per un atto di amore, è urgente predicare che il Dio Trino ama tutti gli uomini ma non usa misericordia, cioè si vendica, verso chi ostinatamente rifiuta di ubbidire alla sua volontà. E la sua volontà, a scanso di equivoci, è che crediamo di essere dei peccatori perduti e riteniamo che solo Cristo possa salvarci. Non vi sono meriti né santi né preghiere che possano renderci meritevoli di andare in cielo, ma solo ed unicamente l'opera di Cristo. Nei confronti di chi non crede, il Dio vendicativo eseguirà il suo giudizio. Novembre 2005. Ellero.